c'era Massimiliano Fabri, che è un artista anche lui, ma ottimo curatore, che ha curato questo Selvatico, si chiama questa rassegna, tutta di pittura, per cui ho portato anche un paio di sculture, giusto per rompere il cazzo come al solito. il coxo non sei in radio, ma comunque non si dice, no, dai. Ma l'ho detto apposta per rompere il coxo anche a te, ecco, bravo, che ti manca quando faccio la maestrina. Poi, sì, dopodiché appunto inaugura domani, ci sono un sacco di artisti e vogliamo dire il titolo di questa mostra, il nome della galleria, l'elenco degli artisti, no grazie, no, l'elenco degli artisti perché no, dovete però sapere, miei cari ospiti, posso, che Stefano, posso fare un esperimento? No, ho paura, glielo facciamo fare un esperimento? Vabbè dai, sì. Abbiamo degli ospiti clementi. Funziona? Va, che bello. Quindi... sai che tutta la vita che volevo fare questa cosa? No, non lo sapevo, Stefano. Ecco, adesso, ma sono molto contento. Finalmente posso. Finalmente abito in un posto dove la città Fujiko si sente perfettamente. Per cui non ho bisogno di sentirla in streaming. No, meraviglia. Quindi eravamo noi dalla diretta. Comunque, aspetta, che io voglio mettere questo. Ecco. Metti questo. Perché questa qui sarà l'unica menzione di questa puntata, più o meno esplicitata. No, nel senso, ah, ecco, ce n'è, no, in realtà, se vai su Google Drive c'è una cosa che però non mi ricordo più che cos'è, naturalmente. Ti telefono dopo, allora. Allora telefonami dopo, però dammi il tempo di cenare, per cui facciamo fra 25 quando il cox è finito la settimana prossima. Allora, facciamo, dimmi così, un attimino, dai. veloce, che io ho due ospiti, che anzi uno e Trino, no, non sarà una cosa un ecco, po' così. No, aspetta che se si carica te la dico subito la menzione. Ah, niente, bello parlare con Stefano, perché a parte quando fa gli elenchi dei interminabili di questi artisti, che da proprio il sonno, poi non ti dobbiamo sentire tutti. Vabbè, era comunque una lezione di stasera, che inaugurava stasera alle 18, per cui è come non averla menzionata. Però volevo dirti che c'è una nuova mostra di Giovanni Boldini, 50 opere su carta, alla Galleria Bottega Antica di via Zarzeglio 96A. E invece domani cosa c'è? Domani c'è la mostra di Cotignola, che si chiama Selvatico ed è al Museo Varoli, non ti puoi sbagliare. Grazie caro Stefano, invece io adesso ho il piacere e l'onore di introdurti agli ospiti unici, soli e mega galattici della puntata del Coxo numero 244. Bravo, l'hai presa, in realtà lo scoprirò solo domani quando pubblicherò il blog. No, però è un bel numero, 244. Perché appunto ho avuto la possibilità di avevo il computer acceso, per cui c'era scritto Coxo Spaziale 244. Comunque adesso quando te lo dirò tu ti mangerai tutti gli unghioli di non essere venuto qui, ma di essere andato a mangiare, perché ecco, questa puntata... Ah beh, io faccio ancora in tempo a arrivare, stai infatti, attenta. Pensiamoci, perché questa puntata sarà interamente dedicata ad una cosa meravigliosa, un gruppo informale di quartiere che si chiama Con Cibo. E abbiamo dall'altro lato del vetro, dove potresti essere anche tu, una persona che è parte attiva di questo gruppo informale, che adesso si autopresenterà con la sua bella voce. Diego, ciao, piacere. E un'altra persona che invece vive in Bolognina e conosce questo gruppo informale per aver frequentato le attività, ed ecco il suo nome, Alessandra. E allora, se hai capito cosa ti stai perdendo qui, Stefano, e non avremo neanche la possibilità di mettere il Google Translate come solo tu sai fare, mi dispiace, ti rendi conto? Mi rendo conto. Comunque ringrazio, perché se venivo io poi veniva anche DJ Fede Cortellazzo e sarebbe stato... Ah no, guarda, forse è meglio che resti a mangiare una cena con i parenti. Hai visto? No, perché sì, ci vuole, mandati tanto prima delle mostre le trasmissioni, non mi sembra il caso. E va bene, comunque se riuscirò mai a trovare il mini jack che mi avevi indicato, forse anche ritornerò sul tema degli auguri di compleanno, perché quest'anno ho ricevuto gli auguri più lontani di tutta la galassia. Cioè, nel senso, wow. solo beh, insomma, no, sei sempre sul pianeta, però... Spock. Quasi. Va bene Stefano, allora vai a cenare, io intanto parto con un brano che qui i nostri ospiti ne hanno portati tantissimi, e poi ascoltaci, messaggiaci e facci sapere come andiamo. Non mancherò. Ok, adesso invece ciao, puoi mancare pure. Ciao. All's my life I has to fight, nigga. All's my life I... Hard times like, yeah. Bad trips like, yeah.

E che effetto ti ha fatto riscoprire un po' il quartiere dove già giravi in questi termini? Oh, no, è stato molto bello scoprire che c'era una storia e persone che erano anche interessate a tirarla fuori, che dei posti dove passavo di continuo avevano poi delle storie importanti alle spalle. Quindi l'ho trovato proprio super interessante. Molto okay. Bello. E poi, sì? E poi ho incontrato questo gruppetto di una parte del gruppo di Concibo per caso in un bar. In uno dei bar frequentati in Bolognina, che è diventato un... Quella stessa sera? No, questo l'anno scorso. Ah. L'anno scorso ho incontrato loro e poi ho unito le varie punti. Cose. Ho detto, ah, ma voi siete quelli che avete organizzato. Hai unito i punti, sì, e fatto la rete. Sì, sì, brindiamo, brindiamo. E siccome Alessandra è una cara vecchia amica del Coxo, e chi sale sul Coxo ci ritorna sempre prima, sì, o poi, a suo malgrado, ti è toccato oggi. Ed effettivamente mi hai parlato di questa cosa della quale, con Cibo, della quale adesso passerò a strizzare ben bene l'altro ospite, che è Diego. Che ne sa, pacchi. Quindi tu, Diego, sei nel gruppo dall'inizio? No, io sono entrato nel gruppo 2 anni fa circa. Ah, proprio in concomitanza con questo evento che ha irretito anche Alessandra. Sì, che è stato il mio battesimo. Davvero? Ma sì, che bella coincidenza, sì. Un doppio battesimo in qualche modo, tu all'organizzazione o quello di cui si può chiamare, poi mi dirai, anche, sì. E anche alla fruizione. Sì. Quindi questa puntata radica 2 anni fa in una passeggiata che è finita in balera. Mi piace. E quindi anche tu abiti in Bolognina, giustamente, che questo forse è l'unico prerequisito per essere parte del gruppo informale, o no? È più facile parteciparvi se si abita in Bolognina, sicuramente. Però spesso intrecciamo relazioni anche con persone che abitano in tutta la città, insomma. Quindi a tua volta chiederò anche a te, come hai incrociato con Cibo? Beh, come Alessandra, anche per me è stato per caso. Mi ero appena trasferito in Bolognina ad abitare, e avendo molti amici lì già da diversi anni, mi hanno detto, mentre c'è, cioè, un giorno in cui stavo facendo il trasloco, stavo portando le ultime cose a casa, ma Diego, vieni, devi venire assolutamente a questa cosa, un pranzo in Piazza dell'Unità, dove ci sarà il mondo, ci saranno centinaia di persone del quartiere, ognuno porta qualcosa e poi si condivide. Poi ci sarà il mondo, non in senso di tanta gente, ma proprio il mondo nel senso geografico anche, no? Perché, sicuramente, perché la Bolognina è un quartiere appunto multiculturale, quasi un 20% di persone che appunto non così detti non italiani, poi ovviamente sono italianissimi. Sì, dopo la terza generazione, come dici. Infatti. Nato per caso, però è anche difficile allo stesso tempo dire chi è parte del gruppo e chi no. Cioè, c'è sicuramente un gruppo, come dire, il core group, no? Come sì, si suol dire, cioè quelli super attivi, eccetera. Però è anche un gruppo molto fluido, appunto, perché sì, è informale. Che fra l'altro quel core group sarà anche quello che poi, una volta evidenziato quale può essere la direzione di un evento piacevole da condividere con i coquartierini, che con cittadini è un po' più grande, Bolognini. I bolognini, e si faccia anche lo sbatti di parlare con le istituzioni, che mi sa che se c'è musica e cose del genere tocca, o no? Ma dipende, cioè, diciamo che quando fai un evento che ha un posizionamento fisso come in Piazza dell'Unità, devi chiaramente chiedere l'uso del suolo pubblico. Occupazione del suolo pubblico! Cioè, è inevitabile, no? Cioè, comunque fa specie parlare di come dire, attività così informali, e poi c'è sempre, sì, un momento che... Come dire, io mi trovo col vicino di casa e mi faccio due cacchere al parco, ma se siamo un po' di più di 5, no, niente. Occupazione del suolo pubblico! I permessi, sì, perché poi chiaramente la cosa è molto organizzata, per cui ci sono i tavoli, le sedie, cioè proprio, come dire, è un invito alla condivisione, un invito alla convivialità, sì, nel posto, per qualche ora assieme. E quindi tu hai incontrato, appena tramite gli amici che già erano lì e già erano stati contagiati da questa, ma nasce subito, cosa vuol dire con Cibo? Ma mette assieme chiaramente Bologna e Cibo, nel senso che tutto è nato attraverso un pranzo, una cena sociale, appunto. Che però fu 4 anni fa. 4 anni fa la prima. Sì. L'ho presa giusta anche questa, e vai, c'è speranza! premio. Quindi 4 anni fa nasce, mi dicevi, perché va bene, ne abbiamo un po' parlato prima, non stiamo del tutto improvvisando. E mi dicevi che in realtà io a pensarci e a conoscervi pensavo che fosse magari l'iniziativa di qualche gruppo post universitario che magari si appoggia al sostegno dell'XM e via dicendo. In realtà mi dicevi che, vabbè, fermo restando che potrebbero essere benissimo dello stesso tipo, con le stesse esperienze alle spalle, ma mi parlavi di famiglie. Sì, diciamo che nel quello che citavamo prima, il core group, no? I primi fondatori sono dei residenti del quartiere con delle famiglie, quindi non necessariamente degli attivisti o provenienti da, come dire, realtà studentesche, eccetera, eccetera. Quelle che si definirebbero persone normali, che hanno una vita normale con un lavoro che è tutt'altro, e che però hanno una sensibilità forse diversa, forse fuori dal comune, che diventano delle dinamo che in qualche modo, come un effetto valanga, e attraverso le loro capacità relazionali, come dei magneti, catturano persone all'interno di questa avventura che è estremamente Guarda, bella. Mi permetto di obiettare un attimo, perché ti stai riferendo a loro come persone un po' particolari al di fuori del comune. Secondo me in realtà sono proprio quelle che della tradizione di questo territorio, di Bologna la Grassa, Bologna Biassanot, e un sacco di persone che ormai, diciamo, stanno abbandonando per questioni temporali questa città, avevano fatto proprio di questa caratteristica della Bologna conviviale, accogliente, la carica che ha costruito proprio la socialità e anche l'architettura della città stessa. Quindi io direi che gli anormali sono stati quelli che sono venuti dopo, e loro fortunatamente continuano questa tradizione. Scusami, piccola noticina. Però quindi queste famiglie che probabilmente cresciute lì, che poi il bolognaro vero, quello che è lì da generazioni. Io qua uno l'ho conosciuto, ho provato anche a invitarti, era quello che ci invitava spesso a cena, ho detto vai, vieni anche tu a cenare con lui, e tu hai detto no, non voglio. Va bene. Vabbè, forse avevo il mal di testa quella sera. Una sera che eravamo andati a quella cosa strana che era il finger food, qualcosa. Poi abbiamo ripiegato sul cinese, sì, che sì, quello non tradisce mai. Dà sempre più soddisfazione. Va bene, quindi l'ex mercato. Sì. Quanta storia e quante cose che sono successe in Bolognina, quanti posti importanti anche nella, cioè anche per la mia vita stessa, questi 20 anni bolognesi. E quindi contenta che ci sia una tradizione in recupero, e soprattutto, quindi dicevamo, queste persone si sono incontrate, hanno cominciato probabilmente spontaneamente ad abitare realmente lo spazio condiviso del quartiere, e facendo cosa? Ma diciamo che questa tradizione però è stata recuperata attraverso una reazione, forse una reazione a quella che stava diventando una narrativa un po' pesante e dominante su quella che è la Bolognina, cioè come se fosse il Bronx della città, quartiere pericoloso, pieno di sporcizia, dove sì, cioè molti bolognesi appunto vedono ancora la Bolognina in questo senso. E quindi loro hanno detto, ma cioè innanzitutto non è reale, perché noi ci viviamo, non mancano i problemi, però è anche molto altro, c'è una vivacità culturale, sociale enorme. E quindi tutto è nato appunto attraverso l'organizzazione di quella che allora è stata una cena, tutti assieme in Piazza dell'Unità. Quindi siamo partiti subito in grande con Piazza dell'Unità, che è un po' il salotto grosso del quartiere, no? Sì, infatti è, cioè per quello che, come dire, io non sono bolognese, e come tanti, forse c'è solo un bolognese proprio della Bolognina in Concibò, ma molti vengono dalla Puglia, soprattutto da Taranto, quindi cioè, come dire, anche quindi ci sono i taralli buoni, scusate, il nervo del gruppo sicuramente. Però sì, cioè probabilmente anche è un luogo dove è estremamente facile spargere la voce, dove ci sono, c'è evidentemente anche fame di iniziative di questo genere, cioè è anche di stare assieme. E visto che se c'è fame se magna, giustamente. Va bene, allora su questo, visto che anche l'ora su questo aleggiare di civi, che adesso io mi immagino che vengano da tutto il mondo e si ritrovino in Piazza dell'Unità, sì, dove tra un po' verrò a viverci anch'io da nei pressi, che così non mi perdo, mi faccio anch'io prendere questa rete, io metterei un altro brano a caso dalla tua chiavetta, Diego, tipo un Aladdin Saint. Fantastico. Sane. David Bowie. Dai, ci sta. Che sì, tra l'altro David Bowie è un po' che sta il suo spirito sta soggiornando nel salotto di un nostro ascoltatore che continua. Sì, abbiamo fatto la puntata di Halloween, c'era una persona che parlava con le presenze e questo ci ha informato che era talmente forte che lui solo per ascoltarsi si era trovato David Bowie in soggiorno e non andava. E la settimana dopo ci ha scritto che era ancora lì. Era piaciuto il soggiorno. Bene, allora ritorna ancora felicemente con noi anche nel 244esimo Coxo David Bowie. Diego ha un dito che a me ricordava un tasto bianco estratto da un pianoforte, poi lui mi ha parlato di martelletti, ma è successo magari durante un evento? Stavi martellando per far qualcosa in quanto membro attivo del gruppo informale con Cibo, unico e solo protagonista del Coxo Spaziale numero 244? No, magari mi porterei una eroica ferita, invece mi sono fatto male giocando a basket. Beh, che era una cosa che si fa molto spesso anche in Piazza dell'Unità, quindi la stavi facendo lì? No, neanche. Però era in Bolognina. Ah, va bene, l'importante è rimanere nel territorio. E si allenava per giocare poi con i bambini a Piazza dell'Unità, per e la vincere sfida. È facile. La sfida con i bimbi, cioè, alto, non so, 1,90 quasi 1,90 con... va bene, si gioca, sì, guarda appunto. Che i bambini di oggi crescono, E noi dobbiamo spronarli a crescere ancora. non ti do la palla, ti sei rotto il dito, bene. Quindi capiamo che essere parte del gruppo informale Concivo comporta dei rischi, bisogna farsi un'assicurazione. Vabbè, dai, scherzi a parte, si parlava di dello scarto. Beh, in realtà a me sembra quasi una sorta di rete che da un punto all'altro si allarga, e una volta che entri in contatto, se hai voglia ci sei e fai, e ti fai tu lo sbatti con l'amministrazione, no, quello penso che sia riservato a pochi. Però è qualcosa di inclusivo, che è un po' come è vivere in uno stesso posto, magari ci si arriva alla fine a conoscere, a salutare queste cose impensabili, no? Assolutamente, tanto che c'è la maggior parte delle persone che poi cominciano a frequentare il gruppo, come dire, la domanda che ci è rivolta all'inizio, la risposta è quasi sempre la stessa. Ricordiamo la domanda dell'inizio per chi si fosse... come avete conosciuto con Cibò, come hai incontrato questa realtà, spesso è al bar o comunque... incontrandoci in uno di questi eventi che sono il pranzo, la cena sociale o la camminata di novembre, di cui poi parleremo, insomma, più. Camminata di novembre, la passeggiata nel quartiere. Ecco perché siamo qui stasera, perché in realtà c'è un'altra pregevolissima menzione di cui però parleremo più tardi. Dico bene? O vogliamo già parlare un po' adesso? Di attesa, un po' sì, di suspense. Sì, suspense, c'è anche questa musichina che fa un po' suspense sotto. Non diciamo so. Solo domenica. Domenica? Domenica. Quindi dopodomani. Domani. Aspetta che ci sta sempre questo. Ma proprio dopodomani, beh? E allora, quindi per rispondere a questa domanda, com'è? Com'è essere membro attivo? Come si diventa? Era questa la domanda, giusto? Mi sono un attimo emozionata perché domenica c'è una passeggiata e quindi sono andata un attimo nel pallone. Ma allora, credo che ci voglia molta curiosità e voglia di... come dire, non è che ci siano degli obiettivi come, non so, può avere un'associazione culturale vera e perché propria. Mi dicevi che intenzionalmente non vi siete fondati ad associazione culturale, esatto. Che avrebbe facilitato molto i dialoghi anche con le istituzioni. Sì, precisamente. Ma snaturato poi in realtà la vera essenza. Tu hai colto un sacco di cose che non ho ancora detto, ma è esattamente così. Cavoli, perché brucio sempre? vado un po' faccia al muro, metto il tamburo, vado a faccia al muro e continuate voi per 5 minuti. Io mi adeguo. No, cioè, credo che tutto risieda molto nella voglia di stare con gli altri, vivere... prendersi un po' cura di questa casa comune che è il quartiere. E poi ci sono sicuramente dei posti che hanno più energia di altri. È chiaro che poi la Bolognina è uno di quei luoghi che sviluppa un sacco di senso di appartenenza, no? Cioè, ci si tiene a dire io sono della Bolognina, io sono del Pilastro, io sono della Cirenaica. E non è un caso, perché sono tutti posti che hanno un'atmosfera particolare. Quindi, cioè, per far parte con Cibò, come dire, non ci sono dei requisiti particolari, è molto orizzontale come organizzazione, quindi non ci sono capi, non ci sono primi, secondi e terzi, ma c'è la voglia di capire qual è la realtà del quartiere, di far parlare anche le voci. Quindi tu il primo evento che hai beccato cos'era? Quello con cui ho conosciuto con Cibò, la cena. Quindi sei passato lì per il tuo quartiere e hai visto, ma c'è una cena qua, ma ci avrei anche fame. No. Ho detto che figata. Cioè, era un'energia particolare, comunque a cui che non avevo mai visto, sicuramente a Bologna. ma forse neanche in vita mia, insomma, una cosa così, cioè, spontanea. Dai, la prima cosa che ti ha colpito, proprio immagine, raccontami, voglio vederla anch'io, per favore. Cioè, ti immagini di arrivare dal parco del DLF, dove stavo facendo un progetto, e appunto arrivo lì, tra l'altro con niente in mano, per cui mi sentivo anche in colpa, perché sapevo che ognuno doveva portare qualcosa. E poi la scena che mi si apre è... questa marea di gente, alcuni che vanno e vengono dai banchetti dove era depositato il cibo che tutti, insomma, che gli abitanti avevano portato, e gente che condivide lo stesso tavolo, come si trova un po' in osteria. Scusami, tu mi stai dicendo che in Piazza dell'Unità, poniamo che fosse quello il luogo, cioè c'era una cena a gratis, che sì, ciascuno aveva portato quello che voleva da casa, così. Esattamente. E Alessandra? Poi... Sì, fantastico. Mi sono trovata. E il bello è che ognuno porta un piatto tipico. Io sono andata senza portare niente, altrimenti avrei portato una parmigiana di melanzane, ma sono una cuoca veramente pessima, quindi non l'ho fatto. Però quando ci sono stata l'anno scorso, anche io lì, perché sapevo che c'erano gli amici, quindi sono andata senza sapere esattamente cosa fosse, però ho trovato questo tavolo dove sopra c'era di tutto. Dal cibo preparato da Tilius, per dire, che c'era qualcosa che aveva fatto lui, che sul Tirolo a, che ne so, il couscous o cose più africane o... Ma e quindi allora una spesa comune per l'organizzazione ci sarà, per portare i tavoli, per le vettovaglie? No, quelle vengono portate, diciamo, il bello della rete che menzionavi, sì, prima, è che si va da chi ha già queste attrezzature o che le mette a disposizione, che serve. Sì, è un tipo di economia sociale che si condivide. Poi le spese che ci sono, diciamo che ogni anno si fa un po' una cassa comune, mm-hmm, e si mette, come dire, uno di questi eventi, si mette una specie di cassetta per le offerte libere. Ma diciamo, questa cosa è meravigliosa. Delle due, mi sa che la cosa che costa di più, se ha un costo, è il suolo pubblico. Sì, cioè, sì. Brutti bastardi. Perché poi non è un costo vivo, però è sempre comporta quella relazione ufficiosa con le istituzioni, e noi, non essendo un'associazione, dobbiamo chiedere a una nostra associazione amica di farsi da tramite per questo. Ma cose, renditi conto. Qui si può fare. Ma renditi conto. Ok, e quindi principalmente quello che capita sono cene o passeggiate. Uh-huh. Domenica? E domenica sarà la quarta camminata in quartiere, in concomitanza con la celebrazione della battaglia della Bolognina, dove si parlerà di, cioè, dove, diciamo, è il momento in cui ci si connette alla storia della resistenza a Bologna, ovviamente non solo della Bolognina. E quest'anno in particolare abbiamo scelto come tema le trasformazioni urbane, le tante trasformazioni che stanno avvenendo in quartiere, e diciamo un misto di sentimenti, perché sappiamo tutti che le città cambiano, sono sempre cambiate, ci sono tante opportunità probabilmente, però in molti questa cosa fa scaturire anche molte preoccupazioni, perché sì, ci sembra che manchi un po' una visione, sì, globale da parte dell'amministrazione sulla direzione da intraprendere. Cioè, vediamo dei grossi investimenti di privati e non capiamo se questa cosa stia erodendo lo spazio sociale in qualche modo. Ci chiediamo come modificherà la vita degli abitanti, se è solo a privilegio di chi è in transito. L'evento si chiama Bolognina in transito proprio per dare la cifra di quella che è la sostanza dell'evento, cioè il transito come trasformazione, ma anche il transito portato dal turismo, per esempio, il movimento, mm-hmm, della ristorazione, della recettività, degli Airbnb. Sì, com'è che si chiama, le compagnie aeree low cost. Sì, diciamo che poi è un discorso complesso, ovviamente, però è appunto perché è complesso abbiamo deciso di chiamare una serie di persone che, o realtà che vivono attivamente il quartiere e diciamo hanno preso un posizionamento preciso su queste tematiche. Mm. Ma sì, quindi a che ora comincerà? Cominceremo alle 3. Alle 3 il punto d'incontro? Parcheggio davanti al DLF. Parcheggio davanti al DLF. Ah, ho capito, dove ci sono anche gli alberi. Sì, okay. Esatto. Le giostrine. Sì, ok, sì. Che anche quella è stata una zona trasformata di recente, non fa tanti anni che l'hanno creato, giusto? Il DLF? No, è la parte davanti, il parcheggio. No, il parcheggio non ormai sono molti anni. Saranno sì. 5-6, non di più. Ed è soggetto a nuove trasformazioni, ci troveremo lì appunto perché è a fianco a quello che sarà il nuovo studentato. Che appunto promette di essere un tema un caldo per il quartiere molto, molto alto, insomma, cioè dalle tematiche complesse, e da lì si vede anche il DLF che da anni insomma che se ne parla del suo destino, e si vede anche la P Tower che è uno dei grandi investimenti che invece hanno già preso già questi nomi, la P Tower dovete venire sì, a capire che diamine tutto ciò. Ok, quindi alle 3 parcheggione giardino davanti al DLF che è il dopolavoro ferroviario. E, ma curiosità, quanti eventi all'anno organizzate? Ma per ora sono due organizzati da noi, che è appunto questo pranzo cena sociale di maggio, di fine maggio, e poi la camminata in quartiere di novembre. E poi chiaramente partecipiamo esattamente come fanno le altre associazioni diciamo con cui siamo in rete, partecipiamo ai loro eventi e diamo una mano, quindi insomma una cosa che piace ai bolognini è dare una mano, e questo è bellissimo. Mangiare e dare una mano. E poi se dai una mano ti fanno anche magna gratis. No, vabbè, allora io lancerei un altro brano, a questo punto sono un po' indietro che mi ero persa nel discorso e non ho, ne prendo uno altro a caso, Baba Zula. Ok? Gruppo turco, sì. Dai, ci sta. E torniamo tra pochissimo. Laura. Ehi. Ciao, come va? Va bene. Ti sembra... Abbastanza. No, perché è tutto il giorno che ti penso e ti penso con questa immagine glassata. Non ne parliamo. No, adesso sono in diretta, adesso c'è un brano e poi devo ritornare in diretta. Però mi chiedevo, ma come sta andando? Tu stai glassando, vero? Sto glassando. E non avevo, voglio dire, io cucino una volta ogni 3 anni e non facevo un dolce da 10, quindi... Quindi è una glassatura importante. Capito, sì. Adesso dice che la glassa è abbondante, io non so se sia una buona cosa su un dolce. Il dolce è figo, poi dopo ti mando la foto. Non so se sarà commestibile, però voglio dire, chi viene... Ma l'importante è che la foto venga bene, scusa. Poi saranno un po' fatti loro che mi conoscono, lo sanno. Cioè, rischio pericolo, ti viene a cena da me e ti mangi il dolce, giusto? Ok, quindi abbiamo anche anticipato che la prossima puntata di Coxo Spaziale, in cui verrai a fare da co-conduttrice occasionale... No! Ci sarà un corso di cucina. Sì, chiamate uno bravo, però. Beh, però tu negozierai e co-condurrai insieme a me e faremo una puntata sulle glasse. Ma tu sei brava, però adesso i tuoi ascoltatori forse non lo sanno, probabilmente non lo sanno. No, di sicuro non lo sanno che sono brava. Però tu sei brava. A fare le glasse, sì. Faccio venire glasse, delle glassature io di solito. Fare le glasse? No, ma non lo so fare. Ma posso chiamare te per non sbagliare 2 volte la glassa? Comunque, cara Laura, che fu in W, voltolina, io e tutto il Coxo ti auguriamo tantissime, 100 di queste glasse per... grazie e torna presto. Adesso mi sta finendo il brano. Io non vedo l'ora. Vai. Ciao, buona ciao. Serata, tanti auguri. E domani tanti auguri. Ciao. Beh, questa musica ci stava alla grande. Dopo che... Oh, mi è andato via un attimo il cursore. Anche il cursore è un attimo. Ci siamo? Provate a parlare? Sì. Ci siamo tutti, tutti e tre. Tutti e tre e molti. Perché in realtà siamo qui perché la puntata 244 di Coxo Spaziale è dedicata a Concibo. Ma è tutto attaccato o con i puntini? Tutto attaccato. Allora ho detto sbagliato tutta la puntata, altro che avevo fatto bene. Concibo. Concibo. Che sappiamo che cos'è concibo? Ma sì, lo sappiamo, voi lo sapete di sicuro, è un'associazione informale di abitanti della Bolognina che organizza 2 eventi all'anno da 4 anni a questa parte, che parte dalla volontà degli abitanti della Bolognina di incontrarsi e di fare rete e di fare cose reali e di fare anche... Mi viene da dire lì memoria collettiva dei posti in cui si abitano, e questo è un esempio importantissimo che avremo occasione di fruire tutti quanti, perché accettano anche quelli che non sono della Bolognina, rendetevi conto voi con che persone abbiamo a che fare. E sarà domenica alle 15 nel parcheggio prospiciente agli stabilimenti del dopolavoro ferroviario, e dove si raccoglieranno i passeggiatori e anche i narratori, perché ci saranno un sacco di narrazioni, a quanto mi dicevate. Sì. Qualche anticipazione? Assolutamente. Adesso parto con la radiocronaca. ci mancava l'elenco dei nomi, e Pasquini non c'era, abbiamo giustamente... Allora, Diego W, adesso... Vai, ma non farmi solo l'elenco dei nomi, per favore. No, però se mi metti l'eco viene più simpatico. Come facciamo? Andiamo a prendere uno stereo dall'altra parte. Leo, ce la fai a fare un po' di eco? Pronto. Ok. Vai. No, allora... Ora. proprio perché... Allora, con Cibò... Con Cibò? Bo? È sicuramente un luogo, un gruppo dove ci si pone delle domande, no? Però diciamo non siamo gli esperti, quindi abbiamo chiamato degli esperti, delle persone che appunto lavorano sui temi delle trasformazioni urbane e che ci dessero un loro punto di vista su quello che sta succedendo in quartiere. Quindi il primo appuntamento al parcheggio davanti al DLF con Giuseppe Scandurra, antropologo, e Paola Bonora, geografa, che ci daranno un po' un'introduzione su quelle che sono le tematiche. Sarà anche abbastanza divertente perché Credo che insomma ci sarà una specie di dialogo a due su questa cosa, quindi anche quindi un po' teatrale. È un cappello introduttivo di quello che sarà poi il percorso camminativo, che abbiamo detto che la passeggiata di quest'anno, l'unica passeggiata del 2018, sono un attimo avanti e indietro nel tempo, e sarà dedicato appunto alla trasformazione. Trasformazione in quartiere, in città, insomma, comunque. Ci focalizzeremo sulle trasformazioni in quartiere e dal parcheggio ci muoveremo verso, giusto per dare un'indicazione. No, però non lo svelare, sennò poi a me piacciono le sorprese. No, però lo sveliamo, Alessandra? No, solo una cosa, due, scegli. Sì, qualche nome, dai. Alessandro Carboni. Che l'ho già sentito io, danzatore. Perché? Cioè, quindi sarà un danzatore a farci giocare con lo spazio. Ah, questo lo poteva dire Alessandra? Sì, dai. E poi te ne manca uno. Uno solo. Scegli bene. No, ma può anche dirli tutto. Basta che non mi dica i luoghi. Perché se mi dici i luoghi mi perdo un attimo. Okay. Cioè, io a me piace la sorprese. Mi piace andare a farmi guidare nei labirinti che non so dove si va. Bendata. Rizomatica. Allora, spero che non si offendano quelli che non menzionerò. Però, allora, diciamo che ci sarà Wolf Bukowski anche, che scrive su Women Foundation. E su Internazionale, e che sarà portatore di un punto di vista molto interessante, estremamente critico sul, non dirò su che cosa. Bisogna esserci. Ok, e basta. Se volete vi sciolino tutti gli altri. Quanti però sono ancora? Sono 9 tappe in tutto. E si concluderà al mercato Albani. Si concluderà il mercato Albani. Va bene, dai, la conclusione. Con una grande festa e c'è della musica, ovviamente. Ah, qua allora sì, valeva la pena di dirlo. Sì, anche del cibo. Ma se mangia anche lungo il tragitto? Due stuzzichini, due grissini, due taralli degli amici pugliesi. Sperando che non piova, tra l'altro, perché... Vabbè, passeggiata bagnata, dovremmo, passeggiata fortunata. Esatto. Ombrelli e quant'altro, però sì, ci fermeremo anche da XM, fuori da XM, che ci racconterà una cosa molto interessante. Ma vedi che continua a dire i posti, mannaggia. Ma XM è anche un gruppo, no? Come hai fatto a capire? Abbiamo un anche commento del posto, anche dalla prossima conduttrice radiofonica. Si poteva anche immaginare che si passasse da XM, voglio dire, in realtà, cioè una tappa obbligata, tipo Via Crucis. E quella è proprio la crocifissione. Stazione, sì. Bene, effettivamente. Dai, questo non era tanto d'anticipazione, dai. Dai, va bene. Poteva starci questa. Però adesso basta. Caffè Borghetti. Quindi non possiamo più far dire altri nomi, perché sennò gli scappa anche il posto e non è più finita. No, si parlava di cibo, di bevande, pare che ci offrano un tè caldo del Brulè, quindi... Cioè, Ah, Brulè mi interessa di più, devo dire, perché col freddin, passeggiate, un po' ti scalda l'anima. Il tè invece toglie, limita l'assimilazione del ferro e io non me lo posso permettere. Anche il vino, ma Brulè, sai mai. Va bene, mi porto il mio beverone al ginger. Il decotto di zenzero. Bene, io direi che a questo punto ci siamo quasi. Siamo pronti con la prossima puntata. La nostra puntata è finita. La prossima sarà la 245esima e sarà venerdì prossimo. Ovviamente voi che siete saliti sul Cox una volta, preparatevi a tornare, che prima o poi vi ritocca. Lo poi sapete. Non c'è 203. E invece qui io direi che ci salutiamo. E magari posso passare la tappa alla mia collega che vi farà compagnia per la prossima ora con qualche anticipazione sulla prossima puntata? 2 ore. Hai capito? Allora, sono Claudia, Might FM, il nuovo acquisto venduta da Kairos e passata a Fujiko. Farò una delle mie pipponi monografici su un artista, insomma, della scena sempre un po' pop rock, funk, alternativo, indipendente, insomma, il nuovo pop contemporaneo, un artista francese che si chiamava Christine and the Queens, adesso ha accorciato in Chris. Assumendo anche un aspetto più androgeno, anche molto sfidante, come si dice, nei confronti delle norme. Scusami, ma fa le 10? Quello fa le 10, io faccio le 20:58. Okay. Significa che sarei già a metà trasmissione. Da noi sono le 9. Ne sarei felice perché mi toglierebbe un gran peso, ma... No, noi siamo felici così che siano le 9 e che ti lasciamo alle brillanti pubblicità delle 9 di Radio Città Fujiko. Saluto Diego, saluto Alessandra che sono stati in compagnia. Ciao. A raccontarci con cibo senza puntini né niente, e da domani su www.coxospaziale.blogspot.com ci sono dei link. Sì. Una paginetta Facebook. Molti. Ah no, allora me li passi tutti e domani li vedete anche voi insieme alle foto di questi splendidissimi bolognesi. E io vado con la pubblicità. Grazie. Che dici, Cla? Ciao. Ok. Direi di sì.